quinta puntata di Coccoli al Silicio. Ci ho messo un sacco a partorire anche questa quinta puntata, ma perché la quarta è stata troppo difficile, mi ero impelagato in quel discorso tremendo sulle geometrie non euclidee, sono rimasto traumatizzato, ci ho messo un mese a riprendermi. E di conseguenza questa volta ho deciso che metto un attimo da parte la storia del pensiero scientifico del positivismo, dal positivismo ai giorni nostri, e faccio in realtà un salto un po' all'indietro, però più relax, leggendo dei pezzi da un libro che sto leggendo in queste settimane, che mi è molto colpito, che parla sempre di scienza, però in una maniera molto buffa. È un libro di Oliver Sacks. Oliver Sacks è in realtà un neurologo, forse lo conoscete per alcuni libri pubblicati sempre dalla Adelphi, anche questo che vi leggo oggi è pubblicato dalla Adelphi, diciamo, i titoli più famosi che potreste aver sentito è L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Un antropologo su Marte, Musicofilia. E poi ne ha scritti anche diversi altri, sempre con un tono molto scanzonato e divertito, anche quando parla di malattie, insomma, diciamo, di cui si occupa poi la neurologia. Aveva un approccio molto eretico comunque a queste tematiche. E il libro che, diciamo, da cui traggo le letture di oggi è Zio Tungsteno, che invece parla un po' della sua infanzia, della sua adolescenza, del suo rapporto con la chimica e del suo innamorarsi appunto di queste tematiche. In particolare in un capitolo che si intitola Il paese della stibnite, e lui parla della sua visione diciamo, del disagio che aveva nell'andare a scuola, non perché non gli piacesse imparare le cose, ma per diciamo, il modello educativo a cui era sottoposto. E questo mi ha molto colpito perché mi ci sono ritrovato un sacco. E quindi vi volevo leggere queste poche righe che secondo me descrivono una tipologia umana in cui credo anche molti di voi si possono riconoscere. Ecco. I musei, soprattutto, mi consentivano di vagare a modo mio, a piacimento, da una vetrina all'altra, da un'esposizione all'altra, senza essere costretto a seguire programmi, a frequentare lezioni, a sostenere esami o entrare in competizione con chi che sia. C'era qualcosa di passivo e di coercitivo nello starsene seduti a scuola. A me questa cosa del passivo e in particolare della competizione con chi che sia mi ha molto colpito. Nel senso che anch'io c'avevo lo stesso disagio a scuola, che non c'avevo voglia di fare a gara per chi prendeva i voti più alti, non mi piaceva questa cosa di mettermi in competizione con gli altri miei compagni, dico compagni non a caso perché io proprio sono andato a scuola dai Salesiani, quindi fino a 15 anni eravamo solo tutti maschi in classe, non c'erano donne, e quindi niente, mi sono abbastanza ritrovato in queste poche righe che scrive Oliver Sacks. E poi è interessante perché lui poi nel capitolo va avanti e descrive appunto il suo peregrinare tra le conoscenze tra mineralogia, chimica, eccetera, di come si costruisce questo laboratorio da piccolo chimico, una roba che avrebbe fatto invidia avrebbe fatto invidia a qualunque bambino della sua età, credo, o forse no, non lo so, forse era un cavolo di nerd e queste cose piacevano solo a lui, non ne ho idea. E poi però, andando avanti nel libro, c'è un altro capitolo che secondo me è interessante perché ci riallaccia un po' alle cose di cui parlo di solito nella prima parte della trasmissione, cioè la storia della scienza. Lui dedica un capitolo che si chiama Un linguaggio chimico, proprio nel raccontare quelle che secondo lui sono le origini della chimica per come lui l'ha conosciuta, cioè quei personaggi che a lui l'hanno impressionato perché lui dice: io studiavo la chimica non solo da un punto di vista solo scientifico, ma anche dal punto di vista storico dell'evoluzione delle idee, dei personaggi coinvolti, ed ero molto affascinato dalla vita di questi personaggi. In questo capitolo in particolare si apre parlando di Robert Boyle e io appunto di questo vi volevo leggere, nel senso che non parleremo questa volta della storia del pensiero scientifico da un punto di vista, diciamo, dal positivismo in avanti, ma andiamo un pochino più indietro e parliamo invece di quello che c'era prima, e in particolare di un personaggio buffo come Robert Boyle. Poi leggeremo nelle prossime settimane magari anche qualche altra cosina, sempre presa da questo libro di Oliver Sacks, che racconta invece gli altri personaggi tipo Lavoisier, eccetera. È un modo anche questo per, diciamo, affacciarsi a quel mondo di idee, di persone che c'è dietro al pensiero scientifico occidentale. Quindi andiamo a leggere. La chimica, come scienza, nacque con l'opera di Robert Boyle, a metà del XVII secolo. Di 20 anni maggiore di Newton, Boyle visse in un'epoca in cui l'alchimia era ancora dominante e lui, accanto a idee autenticamente scientifiche, convivevano credenze e pratiche alchemiche. Ad esempio, credeva nella possibilità di creare l'oro e pensava di aver trovato il modo di farlo. Ma Newton, alchimista pure lui, gli consigliò di tacere. La sua curiosità, una santa curiosità, ebbe a dire Einstein, era senza limiti e lo portò a esplorare una gamma amplissima di fenomeni. Ideò il primo indicatore chimico, una cartina imbevuta di sciroppo di violette che virava al rosso in presenza di fluidi acidi e al verde se esposta a quelli alcalini. Scrisse il primo libro in lingua inglese sull'elettricità. Ottenne idrogeno immergendo chiodi di ferro in acido solforico. Scoprì che, diversamente dalla maggior parte dei fluidi, l'acqua congelando aumentava di volume. Dimostrò che versando dell'aceto su polvere di corallo si sviluppa un gas, in seguito identificato come anidride carbonica, e che le mosche, tenute in quest'area artificiale, dopo un po' morivano. Studiò le proprietà del sangue e si interessò alla possibilità della trasfusione. Fece esperimenti sulla percezione degli odori e dei sapori. Boyle descrisse tutte queste ricerche e molte altre ancora, in un linguaggio di grande semplicità e chiarezza, ben diverso da quello arcano enigmatico degli alchimisti. Chiunque poteva leggere i suoi scritti e ripeterne gli esperimenti. Boyle era fautore di una scienza aperta in contrapposizione al carattere segreto, chiuso ed ermetico dell'alchimia. Nonostante l'universalità dei suoi interessi, la chimica sembrava esercitare su di lui un fascino particolare. Desiderava soprattutto comprendere la natura della materia e scrisse la sua opera più nota, Il chimico scettico, per sfatare la dottrina mistica dei quattro elementi. Gli antichi riconducevano infatti tutto a quattro principi fondamentali o elementi: terra, aria, fuoco e acqua, categorie non molto diverse, suppongo, da quelle che mi ero fatto io stesso a 5 anni. Più difficile era immaginare i tre principi alchemici zolfo, mercurio e sale, dove queste denominazioni non indicavano lo zolfo, il mercurio e il sale comuni, ma i loro corrispettivi filosofici. Lo zolfo conferiva a una sostanza colore e combustibilità, il mercurio le donava durezza e lucentezza, il sale solidità e resistenza al fuoco. Boyle mirava a sostituire queste arcaiche nozioni con un concetto razionale ed empirico. Però, personalmente, trovavo quel libro particolarmente illeggibile, ma rimasi incantato invece dai nuovi esperimenti, pubblicato l'anno prima, nel 1660, dove Boyle esponeva, con gran vivacità e dovizia di dettagli personali, più di 40 esperimenti con la sua macchina pneumatica, una pompa inventata dal suo assistente Robert Hooke, grazie alla quale era in grado di aspirare quasi completamente l'aria contenuta in un recipiente chiuso. Togliendo progressivamente l'aria da un recipiente chiuso, dove aveva messo una candela accesa o un pezzo di carbone incandescente, Boyle scoprì che ad un certo punto la candela e il carbone si spegnevano, e che viceversa il carbone riprendeva ad ardere non appena l'aria vi era reimmessa, dimostrando così che essa era necessaria per i fenomeni di combustione. Indagò poi, in assenza di aria, se si potesse ancora udire il suono di un campanello, e non si poteva. Se un magnete potesse esercitare la sua forza, e poteva. Se gli insetti potessero volare, questo non riuscì a stabilirlo, perché quando l'aria era troppo rarefatta, gli insetti svenivano. Esaminò inoltre quali fossero gli effetti del vuoto sulla luminescenza delle lucciole. La luce emessa era meno brillante. E mi piaceva in generale il tono giocoso del libro, tutt'altra cosa dai dialoghi filosofici del chimico scettico. Se ne era reso conto anche Boyle, e qui si cita Boyle, che dice: "Non disdegno di prendere nota anche di esperimenti divertenti, e penso che a volte i giochi dei ragazzi meritino d'essere oggetto dello studio dei filosofi." La figura di Boyle mi affascinava, come mi affascinavano la sua onnivora curiosità, la sua passione per gli aneddoti e le sue occasionali battute, come quando scrisse che preferiva occuparsi di ciò che era Luciferus rather than Lucriferus, cioè fonte di luce più che fonte di lucro. Riuscivo a farmi un'idea di lui come persona, ed era un tipo che mi andava decisamente a genio, nonostante l'abisso di 3 secoli che ci separava. E questo qua era Robert Boyle, secondo Oliver Sacks in Zio Tungsteno, nel capitolo Un linguaggio chimico. È interessante, a parte gli esperimenti con gli animaletti, che se li poteva pure evitare, però per il resto, secondo me, è interessante come modello anche di comprensione della figura dello scienziato di quegli anni. C'è un personaggio ancora un po' compreso tra appunto tra i miti tra i miti scientifici, tra una sorta di pseudoscienza, cioè l'alchimia alla fine potrebbe essere definita in questa maniera, e i metodi razionalisti illuministi che poi daranno vita al pensiero scientifico moderno. È comunque interessante che tutti questi personaggi, anche quelli che citeremo poi, anche Lavoisier che citeremo probabilmente la prossima volta, sono tutte persone estremamente curiose e che riescono ad incuriosire altre persone curiose come loro. Questo è forse il lato più bello, diciamo, della storia del pensiero scientifico occidentale, insieme poi a tutti quegli oscuri e brutti che io ogni volta mi perito di farvi notare. Ora passiamo invece alla seconda parte della trasmissione. Prima mettiamo una canzoncina e poi iniziamo a parlare dell'argomento che ci porteremo avanti per un po' di settimane, almeno in una parte della trasmissione, e cioè parleremo di virus informatici e in particolare della storia di alcune crew scrittrici di virus e di alcuni virus particolari. Che appartengono ormai agli anni passati, ma sono sempre, secondo me, storie molto, molto, molto interessanti anche dal punto di vista tecnico. Non è affatto detto che quello che era un virus scritto negli anni, fine anni 90, non possa avere delle, diciamo, delle particolarità tecniche, delle particolari tecniche utili anche oggi, o comunque interessanti anche a 20 anni di distanza. Di cui vi volevo parlare è proprio il primo virus che è stato fatto per Linux, almeno il primo noto. Dobbiamo risalire al 1996. È un virus che pronuncio come sta scritto, non lo so precisamente come lo dovrei dire, Staog. È un virus fatto da un gruppo di virus writer che facevano capo a una fanzine principalmente australiana che si chiamava VLAD, cioè Virus Lab and Distribution. Se la andate a cercare è piuttosto interessante. Hanno partorito 7 numeri. Nel settimo numero esce Staog come un articoletto, ed è interessante che nell'editoriale si parli in realtà dello scioglimento del gruppo, nel senso che l'editoriale si apre con una lunga tirata di gruppi che si sono sciolti. I due probabilmente protagonisti principali della fanzine, visto che poi il gruppo si è sciolto dopo che loro se ne sono andati, che sono Quark e Quantum, dicono entrambi di volersene andare perché hanno altre cose da fare e via così. E Quantum in particolare lascia diciamo, termina la sua carriera di virus writer con questo Staog, che è un virus che, come molti virus dell'epoca, è scritto interamente in assembly. Quindi una gran fatica. Ora, se vi cercate su internet i numeri della fanzine si trovano ancora, io me li sono andati a vedere, il virus ce l'ho qua davanti. È interessante come diciamo, nell'header ci siano diciamo, un po' di commenti, e viene un po' descritto come funziona il virus. Sostanzialmente viene spiegato che utilizza tre vulnerabilità note per riuscire a ottenere i privilegi di root sulla macchina su cui viene lanciato, perché questo virus è concepito per girare, per installarsi all'interno del kernel e poi cercare di eseguire tutti, di infettare tutti gli eseguibili che vengono lanciati, indipendentemente da chi li lanci. E quindi per installare se stesso dentro il kernel deve prima essere root. Allora utilizzava tre exploit, però in realtà erano tre exploit abbastanza noti, erano pubblici, non erano zero day, e quindi sostanzialmente appena ha patchato il sistema non funzionava più. Infatti non si sa se per questo motivo o per altri, però c'è scritto così anche nell'ED, c'è scritto for some reason this virus will only work on health machine running dunque la versione del kernel 1.2.13, quindi un kernel piuttosto vetusto da 1997, dove eravamo, 1996 anzi. Vi dicevo che il virus è scritto completamente in assembly. Se ve lo cercate in giro ci sono anche i commenti, ve lo potete leggere praticamente tutto e bearvi di questo lavoro che c'ha della poesia, anche se secondo me nella sua follia di tutta sta roba scritta completamente in assembly. È molto interessante, se vi cercate la fanzina, andare a leggere appunto l'introduzione, perché nell'introduzione appunto si spiega che questo è praticamente l'ultimo numero della fanzine, che poi il gruppo si scioglie, ma che, attenzione, ci sono già i successori, che non sono un gruppo australiano, ma è un gruppo, attenzione, russo e composto da russi e ucraini, che qui si cita un gruppo enorme di praticamente 50 membri. E quindi diciamo, questi di Vlad erano stupiti da quanto cavolo erano questi russi ed ucraini, che si chiama Big Stealth. Il gruppo produrrà una fanzine, che anche questa la trovate in giro in rete, la produce fino al 98 credo, che si chiama Infected Voice. Per la maggior parte i numeri sono scritti in realtà in russo, e quindi non si capisce nulla, almeno io non lo capisco. C'hanno un paio di numeri in inglese. È interessante comunque come, riguardando queste fanzine, che erano poi alla fine l'underground della fine degli anni 90 degli scrittori di virus, si trovano uno un sacco di tecniche che tranquillamente potrebbero anche essere riciclate oggi. Ad esempio, è abbastanza normale, però è interessante che l'articolo prima di Staog, di quello che spiega il virus per Linux, sia un articolo che si intitola Boot Sector Tutorial, in cui si parlava appunto di come infettare il settore di boot, che non è una roba molto diversa da quello che, ad esempio, si va a leggere. Che ne so, nelle ultime rivelazioni di Wikileaks, di Vol 7, delle tecniche della CIA per infettare le partizioni UEFI di vari marchingegni informatici e elettronici. Si tratta sostanzialmente dello stesso principio, solo che le tecnologie poi adibite al boot del computer sono diverse, però l'idea è sempre la stessa, cioè se io infetto quella parte lì, poi sono resident, ci sono lì anche dopo che uno potenzialmente formatta tutto, a meno che non sovrascriva anche quello, che però non è diciamo, il comportamento normale di un utente medio. E quindi è abbastanza interessante. È pure interessante il fatto che i successori di questa Vlad vengono riconosciuti in un gruppo di ucraini e russi. Cioè, oggi gli hacker russi sono diciamo, si sentono spesso nominare anche nella cronaca questi fantomatici hacker russi, questa fantomatica criminalità russa, questi servizi russi, questa grande potenza. Evidentemente, anche nel 98, se guardavamo all'underground, si vedeva come questi si affacciavano ed erano un sacco. C'è poi un'altra roba abbastanza che a me mi ha fatto sorridere, pensando che o è uno scherzo oppure questi qua australiani conoscevano della gente italiana abbastanza di merda. Però c'è un video che questo Quark, che è quello che scriveva l'editoriale della fanzine, dedica, qui c'è scritto proprio: "I have dedicated this virus to my friends in Northern Italy who desire separation of their country, Padania, from Southern Italy." Scusate l'impappinamento sull'inglese. Comunque, sostanzialmente, questo virus si chiama Padania. E questo signor Quark lo dedica a questi suoi amici nel nord Italia che vogliono separare il loro paese, cioè la Padania, dal resto d'Italia. Quindi, che cazzo di gente di merda conosceva in Italia questo Quark? Non penso che sia una presa in giro, perché non mi sembrano personaggi da presa in giro. E, è interessante comunque probabilmente notare come questi signori fossero probabilmente una manica dei ragazzetti, credo, perché io ho letto anche un'altra intervista interessante a qualcuno di loro, credo proprio qualcuno di Vlad, in cui si diceva: "Ma tu che vita fai?" E questo diceva: "Boh, io studio, mi alzo al mattino, studio, poi vado a giocare a basket, poi la sera spacciocco un po' col computer, e nei weekend invece che non devo, che posso, non devo alzarmi presto al mattino per andare a studiare, rimango alzato anche fino alle 4 di notte a spippolare col computer, e comunque vado sempre a fare la mia partitella basket con gli amici." E così pure quando spiegano perché lasciano il mondo dei virus, non è per chissà quale misteri, ma è semplicemente per assenza di tempo, perché magari finiscono di essere studenti, hanno altre cose da fare, sto mondo non è che sia una sciccheria, smettono di essere dei nerd, si trovano delle altre cose da fare nella vita e smettono di scrivere i virus. E è buffo quindi che questo mondo sia popolato da questa gente buffa, che peraltro se gli chiedevi: "Ma tu i virus cioè quanti virus hai lanciato?" Dicono: "Ma io non ho lanciato nessun virus in realtà." Loro se li sviluppavano sulla macchina, li postavano sulle fanzine e manco si preoccupavano comunque che poi venissero in qualche modo diffusi, cioè non erano... non avevano la mentalità da scrivelworm, che si diffonde un sacco, che infetta tutti, così. La maggior parte lo scrivono sulle fanzine, in questa scena di matti che scrivevano roba in assembly, che era una scena alla fine, boh, cioè che poteva coinvolgere qualche centinaia di persone in tutto il mondo nel 98, e questo era quanto. E quindi niente, oggi abbiamo affrontato il primo virus, questo Staog, e un po' di immagini, cioè di racconti retro delle fanzine dell'epoca. Cercatevele in rete se siete curiosi, c'è un sacco di roba che si trova ancora abbastanza tutto. Cioè, in particolare un sito si chiama wxheaven.org, mi sembra, che raccoglie un sacco di materiale su virus e cose correlate. Cioè, il giro dei virus era strettamente correlato anche a quello dei reversari in realtà. E in qualche modo è appunto interessante come queste tecniche, che comunque sono vissute dalle persone stesse che le scrivono spesso come dei giochi, cioè come delle robe divertenti, come degli atti creativi, alcuni di loro si considerano dei poeti, degli artisti, così, siano poi anche però la base di tutte le tecniche che poi vengono usate veramente dai servizi, dalle strutture atte al controllo anche pesante e oppressivo della nostra società. Sono queste tecniche che vengono di fatto prese e riciclate. Proprio riciclate. È interessante, sempre parlando ad esempio delle uscite che ci sono ora su Wikileaks di Vol 7, come Wikileaks abbia messo in evidenza come la CIA abbia ripreso nei propri malware un sacco di pezzi di codice, di tecniche, ma proprio preso pezzi di codice intero di un malware russo di cui erano usciti i sorgenti in rete, ma pure aveva acchiappato materiale dal leak di Hacking Team, cioè quella compagnia milanese che produceva malware e affini e che è stata bucata nel 2014, mi sembra, nel 2015, non mi ricordo più, cioè un paio d'anni fa comunque, e molto materiale era stato rilasciato. Ecco, questi si sono presi pure il materiale da lì, perché questi capito, pigliano un po' ovunque, e così pure probabilmente prendono anche molto materiale da quello che era l'underground. Il problema è che ormai questi sono talmente professionalizzati in questo senso, che una volta era l'underground a produrre materiale che loro copiavano, ma adesso stiamo completamente abbiamo fatto lo scambio praticamente. Cioè, nel senso che questi ormai sono autonomi nella generazione di queste robe, l'underground gli interessa, ma soltanto per vedere quei personaggi più svegli che sono disposti a lavorare con loro. E purtroppo questa è la situazione attuale. Nondimeno, secondo me, è proprio importante invece che noi parliamo di queste cose, perché per un sacco di anni non c'è stato approfondimento di questa roba. O almeno io l'ho sentita questa mancanza, e spesso quando si arriva poi a confrontarsi con robe tipo ah, devo studiarmi, che ne so, il leak di Hacking Team, voglio capire quel particolare sistema di controllo piuttosto che quell'altro, uno si trova ad avere delle grosse carenze, no? E quindi secondo me è interessante parlare di tutto questo, di questa roba, di reversing, di virus, di malware, di backdoor e di tutte queste cose qua, e nello specifico parlare in senso tecnico, cioè come queste cose avvengono. E questo è quanto. Ora ci ascoltiamo un altro pezzetto, poi un ultimo pezzetto di trasmissione, e poi ci si sente la prossima settimana. Cercherò di essere veramente puntuale adesso, smetterà che faccio una puntata ogni 6 mesi. No, non è vero, però ogni mese sì, è vero. Girl, they say you wasn't home. And the second time I tried it, look, they say you want to be left alone. We had a lover's quarrel, yes we did, like all lovers do. I'm ready to make up. Un'altra cosa che mi ha interessato questa settimana è stato scorrendo i talk del 33C3, cioè la convention che tiene annualmente il Chaos Computer Club di Berlino, Potete trovare tutte le registrazioni e i video dei talk sul sito media.ccc.de. E cercate l'ultima edizione, lì trovate tra le altre cose un talk che si chiama Retail Surveillance, Retail Counter Surveillance, in cui un signore di nome Adam Harvey, che è un attivista, artista, diciamo che opera nel campo anche della tutela della privacy, ha tenuto appunto questo talk in cui, tra le altre cose, spiega anche un suo progetto che si chiama Hyperface, ed è un progetto abbastanza buffo nel quale sostanzialmente si tracciano delle linee, dei consigli per il vostro make-up e acconciatura di capelli relativa, tali da confondere i software di riconoscimento facciale, cioè quei software che in automatico riconoscono una faccia, quelli sostanzialmente applicati dalle telecamere di videosorveglianza. E è buffo come questi software appunto si basino su dei pattern, cioè diciamo dei meccanismi per il riconoscimento del vostro volto, per capire come è fatto. E lui ha un po' analizzato gli algoritmi relativi di alcune di questi sistemi, e ha visto che sostanzialmente modificando il proprio volto con un make-up un po' da indiano metropolitano, cioè nel senso che ti devi disegnare delle cose bianche e nere sulle gote, delle strutture geometriche abbastanza precise, devi pettinarti in una maniera buffa, tipo con dei ciuffi, colori di capelli strani, cose così. In realtà si può indurre questi software a non riuscire a capire come è fatto il tuo volto, per il fatto che vengono ripetuti un sacco dei pattern che per loro sono un volto. Quindi loro non riescono a capire quanti volti ci siano nella tua faccia, perché un sacco di cose che loro utilizzano per capire il singolo volto se le ritrovano. E da questo se ne deduce poi, cioè se ne deriva poi, che il tuo faccione appare sostanzialmente come un vuoto bianco con solo il contorno attorno, perché loro non sono riusciti a capire precisamente come eri fatto. Quindi se volete qualche consiglio per il vostro make-up e nuova acconciatura, date un'occhiata a questo talk che appunto potete trovare su internet. Ci sono anche un po' di articoli, se cercate Adam Harvey Hyperface trovate anche le foto per ispirarvi. E è comunque una cosa buffa. Poi lui nel talk parla anche di altre cose, dura abbastanza poco, dura 30 minuti, sono 30 minuti ben spesi secondo me, e quindi niente, se dovete scegliere uno stylist per la vostra nuova acconciatura e relativo make-up, scegliete Adam Harvey e lui saprà senz'altro come indirizzarvi al meglio. My monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. The zombies were having fun. party had just begun. The guest included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the mash. They played the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They played the mash. It got on in a flash. They played the mash. They played the monster mash. Out from his coffin, Rack's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash. It's now the monster mash. The monster mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. It's caught on in a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Now everything's cool, Drax a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash.